Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Quinta puntata. Andò a finire che mi svegliai piuttosto tardi, quasi le 7:30 erano. E questa fu una vera cretinata, come risultò poi. Come vedete, tutto conta in questo porco mondo. Ci potete giurare che una cosa è sempre causa di un'altra. Ben, ben, ben. Il mio stereo non era più in funzione con la gioia e il vi abbraccio voi milioni. Così qualcuno doveva aver girato la manopola. E non poteva essere stato che P o M, dato che li snicchiavo tutte e due nel soggiorno. E dal tin-tin dei piatti e dallo slurp-slurp del tè che lappavano, capii che si trattava dello stanco pasto dopo la giornata di sgroppo in fabbrica e al magazzino. I poveri vecchi, i pietosi bigi. Indossai la vestaglia, aprii la porta e dissi, a modo affezionato figlio unico, «Salve, salve, salve! Sto molto meglio dopo la giornata di riposo. Ora son pronto per andarmi a guadagnare quel po' di spiccioli». Perché quello era ciò che dicevano di credere che facessi in quei giorni. «Gnam, gnam, mammina! Ce n'è anche per me?» Era una specie di torta congelata che lei aveva sgelato e poi riscaldato, e aveva un aspetto per nulla invitante, ma io dovevo dire quello che dissi. Papà mi lanciò un'occhiata mica tanto soddisfatta e direi pure sospettosa, ma non disse nulla, sapendo che non aveva il coraggio. E la mamma mi fece una specie di cuffatina stanca, tipo «Oh, tu frutto del mio ventre, oh, unico figlio!». A passi di danza me ne andai in bagno e mi detti una sgromatina guizza dappertutto, sentendomi piuttosto sporco e appiccicoso. Poi tornai nella tana a prendere le palandre da sera. Poi, tutto luminoso, pettinato, spazzolato e splendido, mi sedetti davanti alla mia trincia di torta. Papà disse, «Non per immischiarmi, figliolo, ma dov'è esattamente che lavori alla sera?» «Oh!» masticai. «Lavoretti in giro qua e là, tipo aiuto». E lo guardai di brutto nei fari, come dire, «Pensa ai fatti tuoi che io penso ai miei». «Non vi chiedo mica dei soldi, no? Mica mi faccio dar soldi per i vestiti e i divertimenti. E allora che domandi a fare?» Il mio papà si fece tutto sottomesso e sottoposto e sottostante. «Scusa, figliolo», disse, «ma ogni tanto mi preoccupo. Faccio dei sogni ogni tanto. Ridi quanto ti pare, ma ci può essere parecchio nei sogni. Ieri notte ho fatto un sogno su di te e non mi è piaciuto per niente». «Oh!» Ora la cosa diventava interesting se lui faceva dei sogni su di me. Mi sembrava d'aver fatto un sogno anch'io, ma non mi ricordavo bene su cos'era. «Allora?» dissi, smettendo di masticare la mia torta appiccicaticcia. «Era molto vivido», disse il mio papà. «Ti ho visto disteso per la strada ed eri stato pestato da altri ragazzi. E questi ragazzi erano come quelli con cui andavi in giro prima che ti mandassero a quell'ultima scuola correzionale». «Oh!» mi feci un ghigno interno. Dato che il papà credeva che mi avessero corretto davvero, o credeva di crederlo. E poi anch'io mi ricordai del mio sogno, che era un sogno di quel mattino, su Giorgi che dava gli ordini come un generale e il vecchio Bamba che gufava sdentato mentre lavorava di frusta. Ma i sogni vogliono dire il contrario, mi hanno detto una volta. «Temer non devi per l'unico tuo figlio ed erede, o genitore», dissi, «di se stesso egli aversa cura, a fè». «E tu», disse il mio papà, «eri senza forze e tutto insanguinato e non potevi difenderti». E questo era proprio tutto il contrario. Così mi feci un altro ghignetto interno e poi tirai fuori tutti i denghi dalle gaioffe e li misi sulla tovaglia macchiata. Dissi, «Ecco, papà, non è granché. È quello che ho guadagnato ieri sera. Ma forse basta per andarti a fare una lappatina di scozzese con la mamma da qualche parte?» «Grazie, figliolo», disse. «Ma ormai usciamo poco noi due. Non ci fidiamo più con le strade che sono quello che sono, con i giovani teppisti e via dicendo. Ma ti ringrazio lo stesso. Vuol dire che domani porterò a casa una bottiglia di qualcosa». E fece sparire il maltolto nelle gaioffe dei calzoni, mentre la mamma stava sgromando i piatti in cucina. E io uscii di casa tra affettuosità e sorrisi. Arrivato in fondo alle scale, ebbi una sorpresa. Rimasi stupefatto. A truglio aperto per lo stupore rimasi. Mi erano venuti a prendere. Mi stavano aspettando sotto l'affresco municipale della dignità spalandrata del lavoro. Martini e Semprocchi e nudi alle ruote dell'industria, come dicevo, con tutti i fumetti di porcherie che i cattivi malcicchi ci avevano scritto sopra. Bamba aveva un grosso gesso nero a olio e stava scrivendo delle mottate sporche alte così sul nostro dipinto municipale e facendo allo stesso tempo la vecchia ragliata da Bamba. Uah, uah, uah! Ma quando Giorgi e Pete mi dissero salve con gran scintillio di zughi someschi, si voltò e berciò: «Lui ha giunto! Lui ha arrivato! Urrà!» e fece una goffa piroetta tipo ballerino. «Eravamo preoccupati», disse Giorgi. «Si stava là ad aspettarti glutando il vecchio mommo coltellato, ma non ti si vedeva. Allora Pete, qui, ha detto che magari ti eri offeso di qualcosa. E così alla tua dimora, ecco, siamo giunti. È vero, Pete?» «Vero, vero», disse Pete. «Pardonne-moi», dissi guardingo. «Avevo un po' di mal di planetario e ho dormito fino a tardi. Non mi hanno svegliato quando avevo detto di svegliarmi. Ma ora siamo tutti qui, pronti a prendere quello che la vecchia cupa ci offre. Eccoci qui. Già». Sembrava che avessi preso quel «già» dal mio consigliere post-correzionale. Stranissimo. «Mi dispiace che non stavi bene», disse Giorgi con un'aria tipo preoccupata. «Forse adoperi troppo il planetario, a forza di pensare agli ordini e alla disciplina e via dicendo. Davvero non ti fa più male? Non sarebbe meglio che tu tornassi a letto?» E avevano tutti e tre quel migno ghignetto sulla biffa. «Aspettate un momento», dissi. «Mettiamo le cose ben bene in chiaro. Questo sarcasmo, se posso chiamarlo così, non vi si addice per niente, o fratellini miei. Forse avete sprolato un piccolo poco alle mie spalle? Avete fatto gli spiritosoni e cose così, vero? Dato che sono il vostro soma e capo, mi pare d'aver diritto di sapere quel che succede, no? Per esempio, Bamba, che vuol dire quel ghignone da cavallo che hai messo su?» Perché Bamba stava a truglio spalancato come se facesse una gran gufata muta, tipo scardinato. Giorgi guizzo si intromise. «No, il Bamba lo devi lasciare in pace, fratello. Questo fa parte del nuovo sistema». «Nuovo sistema?» dissi. «Come sarebbe il nuovo sistema?» «Vedo che vi siete fatti proprio un gran parlare dietro le mie spalle addormentate, allora. Avanti, dite pure. Vi sto a snicchiare». E incrociai le granfie, tipo, appoggiandomi contro la ringhiera rotta in posizione d'ascolto. E siccome stavo sul terzo scalino, ero più in alto di loro, di quei presunti e cosiddetti soma. «Senza offesa, Alex», disse Pete, «ma noi vogliamo che le cose siano un po' più democratiche, senza che tu ci dica continuamente quello che si deve fare e quello che non si deve fare, ma senza offesa». Giorgi disse: «Non si tratta di offesa o non offesa, è questione di chi ha le idee. E quale idea ha avuto lui?» E teneva sfacciatamente i fari fissi dentro i miei. «È sempre la solita roba, mie trucchette come ieri sera. Stiamo crescendo, fratelli». «Dimmi, dimmi», dissi io senza muovermi. «Dimmi pure tutto». «Beh», disse Giorgi, «se vuoi che parli chiaro, parlo chiaro. Noi pistoniamo in giro per negozi e roba simile, e ce ne veniamo fuori con una misera granfiatina di trucciolo. E c'è Willy l'inglese al caffè Muscleman che dice di poter comprare qualsiasi cosa un malcico abbia voglia di sgaraffare. Ghiaccio e lucciconi, per esempio», disse, «sempre con quei fari gelidi fissi su di me. Possiamo farci tutta l'arcigrana che vogliamo», dice Will l'inglese. «Davvero?» dissi. «Tutto tranquillo di fuori, ma molto frappè di dentro. E da quant'è che ti consulti e ti comunichi con Will l'inglese?» «Già da un po'», disse Giorgi. «Me ne vado in giro anche solicello, cosa credi? Come l'altro sabba, per esempio. Posso avere la mia 6 giorni privata, spero, soma Alex?» «A me quel genere di cose non mi interessavano per niente, fratelli». «E cosa te ne faresti di tutta quell'arcigrana, come ampollosamente la chiami?» dissi. «Non hai forse tutte le trucche che vuoi? Se vuoi un'auto la cogli sugli alberi. Se vuoi la bella Maria te la pigli. Cos'è tutto questo friggio di fare il gran capitalista?» «Ah», disse Giorgi, «qualche volta pensi e parli proprio come un bambino». E Bamba fece il suo «uah, uah, uah». «Stasera», disse Giorgi, «ci buttiamo su uno sgaraffo misura uomini». E così il mio sogno aveva detto la verità. Il generale Giorgi diceva quel che si doveva fare e quel che non si doveva fare, e Bamba era il suo ghignante bulldog con frusta. Ma io mi comportai con cautela, con grande cautela, con la massima cautela. E dissi sorridendo, «Benissimo! Proprio cinebrivido! Il momento delle iniziative arriva per tutti. E io ti ho insegnato molte cose, piccolo Soma. Dimmi pure quello che hai in mente, Giorgi Boy». «Oh!» disse Giorgi col ghigno da furbastro. «Prima il vecchio Momo Plus, non ti pare? Qualcosa che ci dia sprint a tutti, ma soprattutto a te, che non hai ancora preso nulla. Mi hai letto nel pensiero», risposi sempre sorridendo. «Stavo proprio per suggerire il caro vecchio Corova. Ben, ben, ben, guidaci, piccolo Giorgi». E feci un grande inchino profondo, tipo, sorridendo da scardinato, ma sempre continuando a pensare. Ma quando fummo sulla strada l'occhiai che pensare è per i tonni e che i falchi usano invece l'ispirazione o quel che zio manda. Perché fu una bellissima musica che venne in mio aiuto. C'era un'auto in transito con la radio accesa e io snicchiai un paio di battute di Ludwig van. Era l'ultimo movimento del concerto per violino e l'occhiai immediatamente quello che dovevo fare. Con una ciangotta cupa e profonda dissi «Bene, Giorgi, eccomi qua». E saettai fuori la mia lisca tagliagola. Giorgi disse «Eh?», ma fu abbastanza guizzo a scattare la lama del suo sgarzo fuori dal manico e fummo l'uno davanti all'altro. Il vecchio Bamba disse «Oh no, non è mica giusto!» e fece per srotolare la catena che teneva alla vita, ma Pete disse, fermandolo con la granfia, «Lasciali stare, è giusto così». Quindi Giorgi e il vostro umile si dettero al vecchio gioco gattesco, cercando le aperture, conoscendo lo stile l'uno dell'altro un po' troppo cinebrivido, a dir la verità, con Giorgi che ogni tanto faceva «swish, swish» col suo sgarzo luccicante, ma senza trovare mai la connessione giusta. E tra i martini che passavano di lì non ce ne fu uno che pensò di immischiarsi in quel che non lo riguardava, forse perché dopo tutto si trattava di uno spettacolo anche troppo comune. Ma poi io contai «Odin Tua Tree» e manovrai «ac, ac, ac» con la lisca, ma senza mirare alla biffa o ai fari, ma solo alla granfia di Giorgi che teneva lo sgarzo e, fratellini miei, lui lasciò cadere lo sgarzo. Cadere lo lasciò. Lo sgarzo cadde con un tin tin ton sul duro marciapiede invernale. Io gli avevo solo fatto il pizzicorino alle dita con la lisca e lui era là che si guardava il mignorivoletto di salsa che usciva rosseggiando sotto il lampione. «Ecco», dissi, ed ero sempre io a cominciare perché Pete aveva forbidden al vecchio Bamba di srotolare la cricchia. «Ecco, Bamba, ora son tutto tuo, ti va?» Bamba fece «Arg!» tipo bestia imburianata e serpeggiò via la cintura dalla vita così guizzo e cinebrivido da dirgli «Bravo!». Il mio stile ora doveva essere di tenermi sempre basso col salto a rana per proteggere biffa e fari, cosa che feci, fratelli, e il povero vecchio Bamba rimase un piccolo poco sorpreso, abituato com'era a fare sbatac sbatacchiando la cricchia davanti a sé e alla sua altezza. Devo dire però che mi piazzò un colpo terribile sulla schiena e mi fece un male scardinato, ma quel dolore mi avvertì che dovevo lanciarmi guizzo una volta per tutte e farla finita col vecchio Bamba. Così saettai con la lisca verso la sua putrella sinistra, tagliando via due pollici di stoffa e tirandogli fuori una migna goccia di salsa per farlo imburianare davvero. Così, mentre lui seguitava a ululare «Au! Au!» come un povero cane, usai lo stesso stile come per Giorgi, virando e puntando su un'unica mossa, alto, sghembo, taglio. E sentì la lisca andargli ben dentro la carne del polso e il vecchio Bamba lasciò cadere la sua cricchia tipo serpe, guaendo come un bebè. Poi cercò di succhiarsi tutto il sangue del polso e di ululare allo stesso tempo e siccome c'era troppa salsa da bere, lui faceva glu glu glu e il rosso fontanava fuori che era una bellezza, ma non durò a lungo. Io dissi «Bene, amati Soma, ora cominciamo a capirci. Cosa ne dici, Pete? Io non ho mai detto nulla, disse Pete. Non ho banfato una sola mottata. Guarda, il vecchio Bamba sta morendo dissanguato. Impossibile, dissi. Si muore una volta sola. E Bamba è morto prima di nascere. Quella salsa rossa si fermerà, perché non avevo tagliato i cavi principali. E io stesso mi tolsi un garzuolo pulito dalla gaioffa per fasciare la granfia al povero vecchio Bamba, che ululava e gemeva come pochi, e la salsa si fermò, oh fratelli, come avevo detto. Così ora sapevano chi era il capo e chi le pecore, pensavo. Non ci volle molto per calmare quei due soldati feriti al calduccio del Duke of New York, con dei bei brandy doppi, pagati col loro trucciolo, perché il mio l'avevo dato tutto al papapa, e una ripulita coi garzuoli bagnati nella caraffa d'acqua. Le vecchie babusche con le quali la sera prima eravamo stati tanto magnifici erano ancora là che facevano grazie ragazzi e Dio vi benedica ragazzi, come se non potessero più smettere, sebbene non avessimo rifatto il gesto samaritano. Ma Pete disse: «Che prendete ragazze?» E offrì saponate scure a tutte, dato che evidentemente aveva le gaioffe piene di Bella Maria. Così quelle ci dettero dentro più forte di prima, coi loro: «Dio vi benedica e vi conservi, ragazzi! E vi potete fidare di noi, ragazzi! E siete i migliori ragazzi del mondo, siete!» Alla fine dissi a Giorgi: «Ora si torna al punto di prima, vero? Tutto dimenticato e non se ne parla più. Va bene?» «Va bene, va bene, va bene», disse Giorgi. Ma il vecchio Bamba aveva ancora l'aria stranita e disse perfino: «L'avrei preso con la cricchia, quel gran bastardo, se un martino non mi fosse venuto tra i piedi!» Come se non si trattasse di me, ma di qualche altro malcico. Io dissi: «Beh, Giorgi boy, cos'è che volevi fare?» «Oh», disse Giorgi, «stasera no, non stasera, per favore». «Sei un martino grande e grosso», dissi, «come tutti noi. Non siamo mica dei bambini, vero, Giorgi boy? Allora, cos'è che volevi fare?» «Avrei potuto sbernaccargli i fari da cinebrivido», disse Bamba. E le vecchie babusche erano ancora lì che facevano «grazie, ragazzi!» «Si trattava di quella casa, capisci?» disse Giorgi. «Quella con due lampioni fuori. Quella con quel nome tipo stronzo». «Che nome stronzo?» «La dimora o la residenza o una stronzata del genere». «Dove ci abita una semprocchia molto bigia con tutti i suoi gatti e quelle trucche bigie che valgono un fracco di denghi». «Tipo cosa?» «Tipo oro e argento e gioielli. È stato Will Inglese a dirmelo». «Ho zeccato», dissi. «Sapevo dov'era. Nella città vecchia, appena passato il Victoria Flatblock. Beh, un capo veramente cinebrivido sa sempre quando deve essere generoso coi suoi sottoposti». «Benissimo, Giorgi», dissi. «Un'ottima idea, un'idea da realizzare. Ale, vamos!» E mentre si usciva le vecchie babusche dissero: «Non diremo nulla ragazzi, siete sempre stati qua, siete!» Così io dissi: «Brave ragazze, tra 10 minuti torneremo a offrirvi ancora qualcosina». E così condussi i miei 3 soma verso il mio destino. Appena passato il Duke of New York andando verso est, c'erano gli uffici, e poi c'era la vecchia cadente biblio, e poi c'era questo tamagno caseggiato che si chiamava Victoria Flatblock per via di chissà quale vittoria, e poi veniva la parte chiamata città vecchia, con tutte queste case di stile bigio. Laggiù c'erano dei gabbioni antichi sul serio e cinebrivido, fratelli miei, tutti abitati da gente muffigna, vecchi poldi abbaianti tipo colonnelli con i bastoni da passeggio e vecchie semprocchie vedove, e damine bige e sorde e piene di gatti che non avevano sentito il contatto di un martino in tutta la loro purissima 6 giorni. Ed era vero che laggiù c'erano delle trucche bige che potevano rendere una bella porzione di truciolo sul mercato turista, tipo quadri e gioielli e altre sguanate pre-plastica del genere. Così si arrivò quatti e tranquilli a questa casa, chiamata la residenza. E c'erano dei lampioni a globo su gambi di ferro messi come di guardia, uno di qua e uno di là dal portone, e da una delle stanze a pian terreno veniva una lucina fioca, e noi ci si mise in una bella zona d'ombra della strada per guardare dentro la finestra. Questa finestra aveva delle sbarre di ferro tipo prigione, ma si locchiava bene lo stesso quel che succedeva dentro. E dentro c'era questa bigia semprocchia col criname bianco e una biffa rugosissima che versava il vecchio mommo da una bottiglia in certi piattini e poi metteva questi piattini per terra, così si capiva che in basso doveva esserci un gran movimento di rattoli e rattolini miagolanti. E ne lo chiamo anche un paio, due enormi grasse scorfacce che saltarono sul tavolo col truglio spalancato facendo mea, mea, mea. E si poteva locchiare questa vecchia babusca che rispondeva ai suoi micetti sprolando qualcosa tipo rimprovero. Nella stanza si locchiava un sacco di vecchi quadri alle pareti e degli orologi bigi molto elaborati e anche roba tipo vasi e ornamenti che parevano antichi e dovevano costare saettati. Giorgi sussurrò: «C'è da farci un fracco di denghicine brivido, fratelli. Willy l'inglese non vede l'ora». Pete disse: «Come ci s'entra?» Come entrarci era affar mio e guizzo, prima che Giorgi cominciasse a spiegarcelo. «Per prima trucca», sussurrai, «proviamo la via regolare, la porta. Ci vado io, molto cortese, e dico che uno dei miei soma ha avuto un attacco tipo svenimento per la strada. Giorgi può farsi vedere subito in quello stato appena lei apre. Poi si chiede di bere o di telefonare al dott. Poi è facile». Giorgi disse: «E se non apre? Ci si prova, no?» E lui alzò le mestole e fece un ghigno da rospo. Così io dissi a Pete e al vecchio Bamba: «Voi vi mettete ai due lati della porta. Va bene?» Loro fecero «va bene, va bene, va bene» con la testa. «Ale!» dissi a Giorgi e andai dritto sparato alla porta. C'era il chiamino e io lo pigiai e da dentro si sentì fare «brrr, brrr». Ci fu un silenzio tipo snicchiamento, come se la babusca e i suoi rattoloni avessero drizzato le orecchie stupefatti. Così pigiai un'altra volta con più urgenza di prima. Poi mi chinai e aprii la buca delle lettere e ci gridai dentro con una ciangotta di tipo raffinato: «Mi aiuti, signora, la prego! Il mio amico si è sentito male per la strada. Mi faccia telefonare a un dottore, per piacere!» Poi l'occhiai che si accendeva una luce nell'ingresso e sentii le patte della vecchia babusca che facevano flip-flap con le pantofole e venivano vicino alla porta. E non so perché mi feci l'idea che avesse due grossi gattoni sotto ciascun braccio. Poi lei gridò con una ciangotta stranamente profonda: «Vada via! Vada via o sparo!» Giorgi la sentì e gli venne da ridacchiare. Io dissi con una ciangotta da signore tipo gran fretta e sofferenza: «Oh, la prego, signora, il mio amico sta molto male!» «Vada via!» gridò lei. «Li conosco, i vostri sporchi tiri! Vuol farmi aprire la porta e poi obbligarmi a comprare delle cose che non voglio comprare! Vada via, le dico!» Era di un'innocenza commovente, era. «Vada via!» ripeté. «O le lancio contro i gatti!» Era un piccolo poco scardinata, si capisce, per via che passava la sua 6 giorni tutta solicella. Poi guardai in su e l'occhiai che sopra la porta c'era una finestra a ghigliottina e che sarebbe stato molto più guizzo fare la vecchia arrampicata di mestola ed entrarci in quel modo, altrimenti saremmo stati a discutere tutta la cupa. Così dissi: «Va bene, signora, vuol dire che chiederò aiuto a qualcun altro», e feci il gesto ai miei soma che si allontanassero quatti. Soltanto io gridai: «Abbi pazienza, amico mio, troveremo un buon samaritano da qualche parte. Forse non è colpa di questa signora se è così sospettosa, dato tutti i mascalzoni e i manigoldi che ci sono in giro alla notte. Non è colpa sua, non è». Poi aspettammo di nuovo al buio e io sussurrai: «Bene, ora torniamo alla porta. Io salgo sulle mestole di Bamba, apro quella finestra e entro. Poi metto la museruola alla vecchia babusca e vengo ad aprirvi. Niente problemi». Perché volevo fargli vedere a tutti e tre chi era il capo e chi aveva le idee. «Guardate», dissi, «c'è un capolavoro di scultura cinebrivido sopra quella porta, proprio giusto per le mie pattine». I miei soma l'occhiarono e forse anche ammirarono, pensai, e dissero e fecero «va bene, va bene, va bene» al buio. Così via da capo alla porta, in punta di piedi. Bamba era il nostro robustone. Così Pete e Giorgi mi sollevarono sulle tamagne e virili mestole del vecchio Bamba. E durante tutto quel tempo, oh, grazie alle mondovisioni sulle telestronze e grazie al terrore notturno per scarsità di rozzi, la strada era belle che morta. Da lassù sulle mestole di Bamba, l'occhiai che quella scultura sopra la porta era giusta davvero per i miei stivali. Mi tirai su, fratelli, ed ecco che c'ero. La finestra, come mi aspettavo, era chiusa, ma tirai fuori la lisca e feci un bel buco nel vetro col manico d'osso della medesima. Nel frattempo i miei soma manco respiravano. Così infilai la granfia nel buco e la metà inferiore della finestra venne su liscia tipo velluto, che era un piacere. E entrare dentro fu facile come entrare nella vasca da bagno. E di sotto c'erano le mie pecore che guardavano in su a truglio aperto, o fratelli. Marco Cavalcoli ha letto Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.